24 mattino, estate, di Gigi Donelli. 3 minuti, buongiorno, un saluto da Gigi Donelli, da Carmelo Lauricella questa mattina in regia a Londra. Dunque, abbiamo sentito pochi momenti fa Dario Ricci, lo risentiremo, vi anticipo già, a cominciare dalle 8:20. Oggi abbiamo deciso di chiudere questa grande avventura olimpica facendo una serie di collegamenti tra quello che è il recentissimo passato, dunque la capitale britannica, quello che invece è già in fibrillazione per il futuro, futuro olimpico, ma non solamente, ovviamente dunque il Brasile in primo piano. E mentre ci si interroga e diciamo si fanno un po' i conti con i giochi olimpici di Londra, i costi, i benefici, dall'altra parte dell'Atlantico, quindi in Sud America, il Brasile per la prima volta in Sud America si scaldano i motori. Mancano 4 anni, sembra tantissimo, ma in realtà la grande corsa del Brasile passa attraverso i mondiali di calcio e poi dritto verso i giochi olimpici. Rio de Janeiro, dunque, parleremo con una giornalista di O Globo, che è il principale quotidiano appunto del Brasile, Fernanda Massarotto, e parleremo con Roberto Darin, che per il Sole 24 Ore si occupa dei paesi del Sud America, dei loro mercati. Parleremo anche con un collega invece che ci, diciamo, racconta un altro spaccato, che è quello della Russia. Infatti in questi cambiamenti, in questi grandi eventi sportivi, non si può non registrare lo storico cambiamento, ormai la piega che ha preso il mondo nuovo, perché la Russia, ma perché per la prima volta i giochi olimpici invernali saranno in Russia. Dunque Sochi, una città che pure è Mar Nero, una sorta di Genova del Mar Nero, eppure lì i giochi olimpici molto fortissimamente voluti dal presidente Vladimir Putin. Insomma, parleremo di tutto questo a partire naturalmente dalle 8:20. Magari sarà l'occasione anche per voi per raccontarci come sempre all'800 24 00 24 quanto vi siano piaciuti questi giochi, cosa vi è piaciuto in particolare, cosa magari no di questa 30ª edizione. Tutto quanto, dicevo, a partire dalle 8:20. Adesso partiamo naturalmente dalla rassegna stampa. E allora, non vado lontano. Londra ha semplicemente ribadito di essere una capitale intelligente e per niente arrogante. Persino il potere, anzi il potere con la P maiuscola, è rimasto cautamente spettatore, rinunciando ai suoi esercizi quotidiani di verbosità inutile e di presenzialismo fastidioso. Così scrive Fabio Cavalera oggi sul Corriere, in un articolo che ha un titolo appunto su questo aspetto: Londra intelligente e tollerante. Una scelta discreta, come discreta è stata la famiglia reale, anche autoironica, con la regina che si è prestata allo spot allegro imprevedibile con lo 007 nella cerimonia inaugurali, ma soprattutto poco invadenti i ministri, i leader dell'opposizione, consapevoli tutti che i giochi sono degli atleti che gareggiano e di chi assiste e paga, il resto non conta. Insomma, Londra è stata l'Olimpiadi della gente normale e pensiamo, prosegue Cavalera con un minimo di fondamento, che in Italia, dove basta una festa parrocchiale per vedere scorazzare i cortei di auto blu e di scorte, forse assisteremmo a uno spettacolo peggiore. E poi Pechino aveva puntato tutto su un unico messaggio: siamo l'Eldorado emergente, operazione di marketing olimpico perfetta, asfissiante però invasiva. Furono i giochi interessanti e belli, un'operazione di chirurgia estetica ben riuscita. Londra, a differenza di Pechino, non aveva messaggi da lanciare al mondo, non aveva bisogno di maquillage politici. E questo penso sia davvero uno degli aspetti fondamentali di questi giochi olimpici sobri, della sobrietà ma anche veramente dello sport, il fatto che da questo punto di vista è certo Londra non aveva maquillage particolari politici su cui lavorare, cosa che evidentemente non riguardava Pechino, che anzi ne aveva molto su cui lavorare, e se ci pensiamo anche le Olimpiadi del futuro, ma magari ci torneremo più tardi. Insomma, siamo nel Giotto dello sport, la conclusione invece del CONI che elogia gli azzurri, il Giotto dello sport perché l'Italia, come avete sentito, è ottava nel medagliere finale, nel medagliere 2012, dove la lunga classifica parte dagli Stati Uniti e arriva a nazioni come Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Hong Kong, Kuwait, Marocco e Tagikistan. Bene, l'Italia ottava. Oggi c'è un grande esercizio di calcolo per montare e rismontare i medaglieri, e due fattori emergono in questa estate della crisi, delle difficoltà dell'euro, della riflessione sull'identità dell'eurozona. Bene, il medagliere con i 17 paesi dell'eurozona, dunque con i paesi dell'euro, racconta che l'eurozona complessivamente è la vincitrice dei giochi olimpici, 168 medaglie addirittura, 46 ori gli Stati Uniti, 41 l'Eurozona, ma complessivamente un numero record. Se l'Europa dell'Eurozona avesse schierato un'unica selezione nel medagliere, sarebbe arrivata seconda alle spalle degli Stati Uniti, ma con un numero decisamente superiore di medaglie conquistate. Chissà che anche questo non possa diventare uno stimolo per il futuro. 7:29, tempo di sentire insieme le previsioni in meteo, poi torniamo con la seconda parte della rassegna stampa. Ed è proprio vero che lo sport racconta il mondo, così scrive questa mattina Emanuele Audisio su Repubblica. Tra i molteplici articoli vi segnalo questo, che racconta con un titolo: Cipro, Caraibi e un'altra Africa, la luce di un nuovo mappamondo. Insomma, il cambiamento della società attraverso, del nostro mondo anzi, attraverso appunto la cartina tornasole dei giochi olimpici, che sia ben chiaro, insomma, non è una lettura scientifica, ma certo basta guardare e pensare dove saranno le prossime edizioni. Questo vale naturalmente per i giochi olimpici e mondiali di calcio, per vedere quanto le cose cambiano. Ma come scrive Emanuele Audisio, lo sport dunque racconta il mondo, ogni 4 anni ne tasta il polso, denuncia, porta in trionfo, scuote e decapita certezze. Non c'è più sommerso, ma un nuovo mappamondo. Ecco allora che non si era mai visto un keniano a suo agio nel giavellotto. Sono esempi, sono racconti e piccole storie di un giochi olimpici e dei bilanci che, come scrive l'Audisio, non è solo USA e Cina, ma i giochi anche degli inediti, dagli schermi ai tuffi. Dunque, un keniano a suo agio nel giavellotto, si chiama Julius Yego, 23 anni, è arrivato ultimo in finale, ma per arrivare a Londra si è trasferito 2 mesi in un centro tecnico della Finlandia. Ho imparato il gesto guardando i filmati su internet, ha raccontato. Avevo bisogno di maestri. Insomma, in tutto questo nessuno si inchina più rispettoso davanti alle tradizioni altrui, anzi se può lo sgambetta. La Cina è imbattibile nei tuffi, per esempio, il 10 su 10 dei mondiali di Shanghai? Beh, anche la perfezione ha la sua piccola falla. L'hanno trovata l'americano Bodia, oro nella piattaforma dai 10 metri, e il russo Zakharov nel trampolino da 3 metri. E poi l'India dell'hockey su prato, che aveva abituato il mondo a chinare la testa al suo passaggio, scomparsa, 5 sconfitte su 5 nel giro. Non basta più essere la culla della sapienza, della conoscenza tecnica, avere il know-how del remo, della pallina, della mira, del lancio, dell'assalto, perché il mondo si mescola, ruba, copia, contatta e contratta. Insomma, la catena di montaggio dello sport ha sempre un supervisore che ne conosce e ne detiene il ritmo. Questo è un passaggio dell'articolo, come vi dicevo, a firma di Emanuela Audisio oggi su Repubblica. Vediamo allora gli altri temi e torniamo naturalmente in Italia, a cominciare dalla drammatica vicenda Ilva. Corriere della Sera, Monti invia i ministri a Taranto. Il GIP sospende il presidente dell'Ilva, l'ira del governo e scontro totale sul blocco. Il guardasigilli chiede gli atti, passera dalla chiusura, danni irreparabili. Insomma, nella vicenda dell'Ilva di Taranto è il giorno dello scontro totale. Il premier Mario Monti decide di inviare i ministri dello sviluppo passera e dell'ambiente Clini per un sopralluogo. Il giudice per le indagini preliminari, Paola Todisco, ha deciso di revocare la nomina di Bruno Ferrante, presidente dell'Ilva, curatore dello stabilimento. In precedenza aveva disposto il blocco della produzione della fabbrica sotto sequestro e il guardasigilli Paola Severino chiederà di acquisire i provvedimenti. Subito qualche approfondimento su questa materia così delicata. Intanto Ferrante, in un'intervista che troviamo a pagina 10 di Repubblica, il presidente dell'Ilva dice: messo alla porta mi batterò, non si uccide un'azienda senza sentenza. Non entro nel merito del provvedimento, dice Bruno Ferrante, non dimentichiamo però che siamo in una fase cautelare, non c'è una sentenza, non si uccide un'azienda mandando a casa migliaia di lavoratori. Davide Carlucci, l'autore dell'intervista, chiede: che senso aveva che lei fosse custode giudiziario? Ferrante risponde: il riesame aveva individuato un percorso virtuoso che portasse al dissequestro nel caso in cui l'azienda non avesse adottato le misure corrette. Aveva nominato me tra i custodi, era un modo per mantenere un collegamento tra il lavoro svolto dagli altri custodi e l'attività della società, perché accanto alle indicazioni di risanamento dei periti c'era un pacchetto di iniziative condivise con governo e regione. E poi c'è la nuova AIA, l'autorizzazione integrata ambientale del ministro dell'ambiente Clini. La mia presenza dunque serviva a raccordare il momento giudiziario e quello industriale. Ferrante, dunque, il presidente dell'Ilva, dopo la revoca, dice: messo alla porta mi batterò. E poi c'è anche spazio tra i molti servizi per un profilo, in questo caso dal Corriere della Sera, il giudice con la sorella che lavorò all'Ilva. Anna Patrizia Todisco, 49 anni, è il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto che ha firmato l'ordinanza di sequestro. E allora Giusy Fasano scrive: lei, il giudice, classe 1963, né sposata né figli, lavora e segue tutto in silenzio. La rossa Todisco, e parliamo del colore dei capelli, è cresciuta a pane e codici da quando 19 anni fa entrò nella magistratura, scegliendo e rimanendo sempre nel Palazzo di Giustizia di Taranto. Dei tanti procedimenti aperti sull'Ilva finora non ne aveva seguito nessuno. Il Mostro d'Acciaio, dove sua sorella ha lavorato fino al 2009 come segretaria nella direzione, lo ha sempre osservato da lontano, non troppo lontano in realtà, visto che è nata e vive a pochi chilometri dal profilo delle ciminiere, che deve essere alquanto familiare. Il giudice non è una persona riservata, scrive Fasano, di più, e ovviamente è allergica ai giornalisti. Non si dispiace proprio, non ho niente da dire, è stata la sola cosa uscita dalle sue labbra all'incrocio delle scale che collegano il suo piano terra con il terzo, dove c'è la procura. Ecco qua dunque la vicenda, naturalmente Ilva presente come i giochi olimpici, ma con tutt'altro tenore in tutti i quotidiani questa mattina in edicola. E ci sono però anche altri temi per il Sole 24 Ore del lunedì. Il titolo d'apertura è sulla riforma delle professioni. Subito operative le misure che liberalizzano la pubblicità su ogni mezzo. Con la firma del regolamento da parte del presidente Napolitano decadono da oggi le norme incompatibili con i principi del riordino. Il commento che il commento del Sole questa mattina è a firma di Carlo Carboni, dice: la riforma delle professioni ora in fase di attuazione si è rimpicciolita una sorta di mini liberalizzazione? La risposta è probabilmente positiva e il motivo è che la politica dei piccoli passi su questo tema appare l'unica percorribile in questo momento di casse esangui dello Stato, e tenendo conto della forza corporativa, della complessità e degli ulteriori processi di stratificazione e di differenziazione che il pianeta professionisti ha conosciuto in questi anni. La metamorfo di questo gruppo sociale evidenzia due aspetti. Il primo, le definizioni del professionismo sono mutevoli e i numeri incerti. Il secondo aspetto è che l'immagine del professionista in carriera, che ha caratterizzato gli ultimi decenni del secolo scorso, appare oggi logorata. un'immagine che erede del notabilato, dei ceti colti, i professionisti dalla seconda metà del Novecento a oggi hanno vestito un'immagine sociale di classe agiata e comunque sono apparsi l'arteria principale che ha alimentato il nostro ceto medio. Tuttavia, questa immagine oggi riguarda numeri ristretti, risponde sempre meno alla realtà del professionismo autonomo d'oggi, al cospetto della crisi. I professionisti a rischio di precarietà sarebbero 1 su 5, oltre il 40% guadagnerebbe meno di 15.000 euro l'anno, dati che, se veritieri, descrivono i gruppi professionali in grande trasformazione, ma anche in acuta difficoltà. Questo è il Sole 24 Ore questa mattina, il Sole 24 Ore del lunedì naturalmente. La Stampa, anche in questo caso abbiamo sport, il caso Ilva, ma nella prima un altro tema importante è lo shock in Egitto, tolti i poteri all'esercito, l'inattesa svolta del presidente, ci torneremo. Per Repubblica è energia, il piano per la crescita, a settembre 3 miliardi per mettere online pubbliche amministrazioni, scuole e ospedali, il referendum anti-euro si allarga il fronte. Piano del governo per l'energia, il ministro dello sviluppo economico Passera ha individuato una serie di misure che potrebbero aiutare la ripresa della crescita economica in autunno. È in programma un aumento della produzione petrolifera nazionale che permetta di soddisfare fino al 20% della domanda, consentendo un aumento del PIL di 0,5 punto. Nel documento riservato del Ministero c'è anche il via libera agli investimenti sul gas con metanodotti dall'Algeria e il corridoio sud nell'Adriatico. Sempre in prima su Repubblica anche i 100 giorni di Hollande, dunque il presidente francese, leader, lo definisce nel titolo, troppo tranquillo, e una riflessione, un commento a firma di Bernardo Valli. Vediamo ancora qualche altra apertura. Per il Messaggero è Ilva, Monti invia i ministri, pronti alle vie legali. Nel taglio centrale la musica e medaglie, l'ultimo show di Londra, con una forte sottolineatura per la delusione che qui viene definita lo scippo al pugile Cammarelle, tanta rabbia, sono le prime righe appunto dedicate alla chiusura di Londra, tanta rabbia per Roberto Cammarelle che deve accontentarsi della medaglia d'argento, l'oro della box finisce all'inglese Joshua, un'ingiustizia, un furto, non di meno, nemmeno diciamo questa posizione scalfisce la valutazione anche del Messaggero sulle Olimpiadi, sui giochi olimpici che in una battuta vengono definiti meglio di Pechino. Questo per quanto riguarda il Messaggero. Ilva, Monti contro il giudice per il giorno, che in prima pagina porta anche il tema che purtroppo, come dire, è industriale da un lato e anche pratico per chi ci si trova coinvolto. Mi riferisco al caso Windjet, dunque stop ai voli Windjet, caos passeggeri, centinaia di viaggiatori bloccati, spese folli per tornare a casa. Nelle pagine interne la paralisi, i passeggeri abbandonati e le società di leasing che si riprendono i loro velivoli. Ecco, subito allora vi segnalo nella pagina interna, pagina 9, un'intervista a Giovanni Luciano, segretario nazionale della FIT, la Federazione dei Trasporti della CISL, che ce l'ha un po' con tutti, antitrust, governo, ENAC, e chiede Olivia Posani perché è pronto a credere alle ragioni dell'Italia. Dice: perché delle due l'una, o afferma il falso oppure lì sono tutti pazzi, visto che hanno pubblicato dati, cifre, percorsi così precisi che se non fossero veri partirebbero denunce e querele. Invece nessuno ha confutato nulla, neppure l'ENA. Quali dati? Chiede la giornalista. L'ex compagnia di bandiera dice che Windjet non è proprietaria dei suoi slot, cioè dei suoi diritti di partire e di arrivare a certe ore. Vorrei chiedere al presidente dell'ENAC Riggio come sia possibile che la compagnia volasse senza essere proprietaria. Insomma, una vicenda che naturalmente suscita aspre polemiche. I numeri sono quelli che abbiamo sentito anche nel giornale radio: 12 è il numero della flotta, la i 7 Airbus 300 da 180 posti, 5 Airbus 319 da 142 posti, ma anche per certi versi, per molti, visto almeno il numero, soprattutto i 300.000 biglietti venduti che ora rischiano di non essere utilizzabili per le cancellazione dei voli della compagnia. Allora, a proposito di trasporti, vediamo ovviamente con un altro approccio, sperando che tutto vada per il meglio. Sentiamo allora insieme come vanno le cose sulle strade italiane. Eccoci qua ancora, 7:45 minuti, ancora un saluto da Gigi Donnelli questa mattina al microfono. Continuiamo dunque la nostra lettura, naturalmente, di alcuni dei titoli e degli approfondimenti che troviamo oggi sulle pagine, nelle pagine dei quotidiani italiani. Come vi ho già detto, il tema appunto dell'imprenditoria e della, diciamo, incrociando la cultura imprenditoriale italiana e le difficoltà che ormai perdurano da tempo, Ilvo Diamanti questa mattina scrive un fondo, dice: quando l'imprenditore si sente classe operaia, il volto sociale della crisi, dice, è descritto da molti indicatori. Per primo il tasso di disoccupazione, poi il calo dei consumi che si riflette tra l'altro nel minor numero di persone partite per le ferie, poi la riduzione repentina del risparmio privato, punto di forza del nostro sistema bancario. Ma l'aspetto forse più significativo della crisi sociale italiana riguarda però l'impresa, in particolare l'impresa di piccola dimensione, visto che in Italia le piccole imprese hanno un'incidenza molto ampia. Sono infatti circa 60 ogni 1000 abitanti, mentre la media europea è intorno ai 40. Insomma, la seconda Repubblica, prosegue Diamanti, è sostanzialmente fondata sull'imprenditore come mito e come realtà. La Lega ha dato visibilità alle rivendicazioni delle aree di piccola impresa del Nord, mentre Silvio Berlusconi ha incarnato il mito dell'imprenditore all'italiana, che si è fatto da sé. Lo ha sceneggiato, rappresentato in tutti gli ambiti e in tutti i linguaggi, dai media allo sport, dal costume alla morale pubblica. E prosegue: le sofferenze delle imprese italiane in questa fase vanno dunque valutate con grande attenzione, perché potrebbero prefigurare un cambiamento di ciclo sociale, oltre che economico, dagli esiti difficilmente prevedibili. I segnali in tal senso sono molti. Sotto il profilo delle statistiche economiche è in atto ormai da anni un calo assoluto del numero di imprenditori, 25.000 in meno nel 2011 rispetto al 2010, ma 170.000 rispetto al 2010. E 4. Conclude Diamanti: in questo paese dove la borghesia innovativa e riformatrice ha storicamente occupato uno spazio limitato, inadeguato a promuovere la modernizzazione, gli imprenditori, piccoli e piccolissimi, i lavoratori autonomi, hanno invece ingrossato il paese medio, dove coloro che si sentono ceto medio dal 2006 a oggi si sono ridotti, anzi sono crollati dal 60 al 40%. In Italia, se anche gli imprenditori si sentono di ceto medio basso e si dichiarano classe operaia, chi reagirà dunque alla crisi e soprattutto chi spingerà la ripresa? Questo è Ilvo Diamanti questa mattina su Repubblica. Allora, abbiamo citato tra i temi che vengono segnalati in prima, ma cui la stampa dà maggior risalto, è invece la vicenda egiziana, un paese chiave, un paese per il numero, per il suo ruolo, per la sua posizione anche e naturalmente per il ruolo militare all'interno di un sistema di grande complessità che va da Israele alla Siria, alla Libia, le grandi risorse petrolifere dall'altro. Insomma, l'inattesa svolta del presidente. Con un blitz politico destinato a lasciare il segno, il presidente egiziano Morsi ha tolto il potere ai generali che dalla primavera anti-Mubarak erano una forza chiave in Egitto. Ufficialmente la mossa sorpresa è stata concordata con gli stessi generali, ma solo nelle prossime ore si comprenderanno appieno le conseguenze. Vittorio Emanuele Parsi scrive: il portavoce del presidente ha parlato di una decisione appunto condivisa, ma è difficile credere che Tantawi, lo stesso uomo che aveva cercato fino in fondo di preservare il potere dei militari, una tradizione egiziana che rimonta addirittura alla fondazione dello Stato mamalucco, abbia accettato di farsi da parte. Insieme al pensionamento di Tantawi, nominato consigliere del presidente, insignito dalla massima onorificenza egiziana, Morsi ha anche disposto l'abrogazione della dichiarazione costituzionale, adottata proprio poche ore prima del suo insediamento, che di fatto alterava l'equilibrio dei poteri a favore dei militari, privando il presidente di un discreto numero di importanti prerogative. Insomma, sembra che l'Egitto, il neo presidente, abbia di fatto rotto le catene, o almeno dichiarato di farlo. Poi appunto le prossime ore ci diranno che quale equilibrio di forza esista realmente all'interno del paese. Si direbbe, prosegue Parsi, che Mohamed Morsi si sia deciso a seguire la strada mostrata da Recep Erdogan, il premier turco che ha privato le forze armate di quel ruolo di guardiani della laicità delle istituzioni assegnato loro dallo stesso Kemal Atatürk e confermato da tutte le costituzioni tranne l'ultima. Insomma, un Morsi sul modello turco. Anche in questo caso non si può non pensare, o quantomeno evocare, corsi e ricorsi storici e gli stretti, antichi, profondi legami tra i due paesi. Altro paese, altra questione di politica estera, il giovane turco di nuovo, ma in questo caso il giovane turco di Romney, quello indicato nell'analisi di Mario Del Pero sul Messaggero, sulla scelta appunto di Mitt Romney del candidato vicepresidente. Il candidato alla vicepresidenza non fa vincere le elezioni, ma può contribuire a farle perdere, come scoprì nel 2008 John McCain, quando compì l'errore di scegliere Sarah Palin. Proprio la lezione del 2008 ha indotto Romney e i suoi consiglieri a valutare a lungo e con estrema attenzione tutti i possibili candidati per evitare di ripetere simili passi falsi. La scelta dunque del deputato del Wisconsin, Paul Ryan, appare in una certa misura comunque temeraria, indicativa oggi di una debolezza che i sondaggi implacabili evidenziano più che di una forza. Ryan è infatti uno dei giovani turchi, è uno che nell'ultimo biennio ha reso impossibile la vita sia a Obama sia alla leadership repubblicana al Congresso. Esponente liberista e conservatore, esperto di questioni di bilancio e presidente della commissione competente alla Camera, Ryan ha dato il suo nome a un ambizioso progetto di tagli alla spesa pubblica, eccezione fatta per quelle militari, di riduzione delle tasse per i redditi più alte. Un piano denunciato ovviamente da Obama e dai democratici, criticato da gran parte degli economisti, ma trasformatosi rapidamente in ortodossia incontestabile all'interno di un partito repubblicano spostatosi sempre più verso destra. La scelta dunque di Romney, la scelta che evoca ancora una volta nell'analisi di Mario Del Pero, il giovane turco di Romney. Infine, il nostro percorso internazionale ci ricorda che oggi il presidente francese François Hollande segna i 100 giorni all'Eliseo. Bernardo Valli scrive: non suscita entusiasmi il presidente, ma la maggioranza degli elettori riconosce che ha mantenuto le promesse e rassicurato la Francia. Per chi arriva dall'Italia, anzi non trova in Francia la stessa palpabile angoscia del nostro paese. Avverte piuttosto col tempo una specie di torpore inquieto, venato di incertezza, come se il paese, la Francia, sentisse pericoli in arrivo, senza poterli o volerli precisare. La stabilità politica parigina, l'efficienza delle strutture statali impongono un certo rispetto ai mercati, servono a tenerli a bada, a contenere la loro aggressività che non risparmia i paesi del sud. Ne è la prova il fatto che gli interessi sul debito si mantengano a livelli tedeschi, anche se la contabilità nazionale non si differenzia troppo da quella italiana. Ma insomma, qual è dunque il problema che sembra emergere tra le righe? Dopo la droga Sarkozy, il suo comportamento ha suscitato consensi, quello del neopresidente. È stato come una cura disintossicante, ma col tempo la sua pacatezza può avere un effetto anestetizzante, così dice il sociologo Denis Musset. Rischia di annoiare, di apparire un sintomo di passività in una società severa verso gli eccessi e l'esibizionismo, ma che affida allo Stato e dunque alla sua massima espressione, qual è il presidente, un ruolo particolare, compreso quello di rappresentarla con una certa prestanza, con gagliardia, insomma, anche sulla ribalta internazionale. Interviste a seguire, i 100 giorni dunque di Hollande all'Eliseo tra i temi di giornata. Concludendo, ritorno al Sole 24 Ore, vi ricordo che intanto prosegue il viaggio nei distretti 20 anni dopo, come cambiano dunque i poli del Made in Italy. Oggi un approfondimento che ci porta nel distretto dell'Ardesia, Ardesia Ligure, battuta dalle carambole cinesi. Erano leader negli USA nelle lastre per i tavoli da biliardo, il crollo legato alla concorrenza low cost degli emergenti. Un racconto con appunto il viaggio continua nei distretti 20 anni dopo. Bene, Carmelo Lauricella mi fa segno che è tempo di stringere, allora chiudo linea GR24, noi ci sentiamo dalle 8:20, a dopo. Mattino, estate. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, da Alessandro Longoni, in assistenza questa mattina da Carmelo Lauricella in regia. Eccoci qua di nuovo, alcuni messaggi al 349-238-6666, qualcuno ci prende in giro di fatto per i conti fatti in rassegna stampa sul medagliere. Abbiamo raccontato, no, di come la varia contabilità di chiusura giochi abbia anche contemplato l'ipotesi di un'Europa 17, insomma di una eurozona più piuttosto che di un'Europa 27 di come emerge la superpotenza. Allora c'è chi scrive, sì, magari l'America si presenta separata in 52 stati, dunque ci sono tutte le opzioni possibili al nostro 349-238-6666. Come vi ho anticipato, continuiamo a parlare di giochi olimpici e naturalmente siete benvenuti a farlo anche voi all'800-24-00-24, ripartendo naturalmente da Londra. Allora, Dario Ricci, buongiorno. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti da Londra. Ciao Dario, dunque la voce dei nostri giochi olimpici raccontati in appunto nelle dirette, negli appuntamenti fissi, molti appuntamenti quotidiani da Dario Ricci. Allora, la domanda che ti faccio subito: secondo te questi 25 miliardi di euro spesi sono stati spesi bene? Qual è la tua impressione del day after, visto che l'hai seguita per tutta la durata? Ma devo dirti che vale la pena citare un sondaggio fatto anche in questi giorni dall'Evening Standard ed altri quotidiani inglesi, che hanno chiesto proprio agli inglesi, ai londinesi soprattutto, se effettivamente questi soldi valsa la pena spenderli. Ebbene, il 55% degli interpellati ha risposto di sì, con punte del 60% per quanto riguarda i giovani, insomma. La sensazione dunque che i britannici siano comunque soddisfatti per adesso, naturalmente, un po' diciamo l'onda lunga dei giochi olimpici, ormai la storia ci insegna, arriva dopo un po', però di sicuro hanno portato a casa una bellissima manifestazione. Sì, direi proprio di sì, hanno portato a casa tra l'altro un numero di medaglie che erano 104 anni che non vedevano, soprattutto nel record di ori, ben 29, tanto per rimanere sul discorso medagliere. E poi sicuramente una carica di entusiasmo, lo vedevo ieri tornando proprio qui in albergo dopo la cerimonia di chiusura, tantissima gente che si era raccolta nei vari maxi schermo per tutta la città, Trafalgar Square, la stazione di St. Pancras, che tornavano imbandierati con la bandiera britannica. Insomma, c'è stato un grande entusiasmo, anche se Londra per com'è la città, non si è fermata per le Olimpiadi, ma anzi si può dire che forse l'ha inglobate, ecco. E questa è un'altra grande, come dire, capacità di questa formidabile capitale. Questa mattina anche nella rassegna stampa abbiamo letto almeno un paio di commenti su questo aspetto, di come una grande città sia stata capace di gestire, Dario Ricci dice, inglobare anche un evento di questa portata. Senti, a proposito, alcuni punti sono obbligatori. La sicurezza era uno dei grandi temi. Naturalmente le grandi preoccupazioni, forse in cima alla lista, la memoria ancora forte, credo, spero, di Monaco c'è, soprattutto di sicuro c'è per chi organizza un evento di questa portata in questi tempi. Ora, tutto è andato liscio, ma visto dall'interno, hai mai vissuto dei momenti di tensione, di preoccupazione, l'effetto città blindata e così via? No, devo dire che questo effetto non c'è stato, anche se poi la presenza dell'esercito, perché poi di quello si è trattato, visto il fallimento dell'operazione G4S, cioè di quella società privata che avrebbe dovuto garantire la sicurezza, che invece a una settimana dei giochi, vale la pena ricordarlo, ammise di non aver praticamente reclutato se non una minima parte dei 10.000 operatori addetti previsti, ha di fatto messo in campo appunto l'esercito, che però ha saputo usare chiaramente i guanti di velluto. I controlli ci sono stati, attenti, metal detector, ispezioni sulle varie navette dell'organizzazione molto approfondite, però presenza costante ma discreta, direi. E d'altra parte Londra, lo ricordiamo bene Gigi, aveva vissuto un trauma originario da questo punto di vista in quel luglio, in cui nel giro di poche ore era passata nel 2005 dall'assegnazione dei giochi nel congresso del CIO a Singapore agli attentati di matrice jihadista che avevano provocato nella Tube oltre 50 vittime. Quindi quello scotto originario sicuramente ha impresso un marchio indelebile a questa edizione dei giochi e si è fatto di tutto per evitare tragedie di quel tipo, anche perché l'allerta rimane sempre alto, soprattutto alla vigilia di un appuntamento che dà grande visibilità come le Olimpiadi. Certo, immaginiamo, voglio dire, è chiaro che uno dei, come dire, dei risultati è assicurare appunto il controllo di un territorio che poi è veramente un territorio urbano in movimento continuo, senza che questo pesi sul clima. E a proposito di clima, i volontari, direi un grande capitolo. Sì, assolutamente sì, soprattutto per la capacità di farti sentire nell'Olimpiade. Ma devo dire, la grande sorpresa è stata la gente. Cioè, in questo, se Pechino era stata l'Olimpiade perfetta, ma vuoi anche per la barriera linguistica, vuoi per l'organizzazione appunto attenta dei cinesi, sembrava un'Olimpiade quasi chiusa in se stessa, quasi in vitro. Qui abbiamo visto la gente, e anche noi operatori dell'informazione, condividendo i mezzi pubblici per i nostri spostamenti quotidiani, abbiamo vissuto Londra e l'abbiamo vissuta con la gente che inizialmente nella Tube ci guardava in modo strano, come dire, guardiamo un po' questi scocciatori che vengono ad aumentare un traffico già caotico, e che invece alla fine è diventata nostra alleata. Abbiamo vissuto questa Olimpiade insieme ai londinesi, e questa è stata la cosa più bella. Senti, ma è realtà o leggenda il fatto che addirittura i volontari abbiano, come dire, rotto il tabù dell'altra lingua? E mi riferisco naturalmente a quello che di andare oltre la lingua madre che domina la volgata mondiale. Cioè, hai davvero incontrato dei volontari pronti a rivolgersi in molte altre lingue del mondo? Soprattutto, guarda, molti colleghi che vivono Londra quotidianamente come corrispondenti di molte testate mi hanno fatto notare questo aspetto, di quanto rispetto al giorno medio la disponibilità sia dei londinesi in generale sia degli stessi volontari era sicuramente maggiore. Devo dire anche che fa parte della formazione stessa del volontario, cioè chi ricopre questo ruolo viene in qualche modo preparato e selezionato, immagino. Esattamente, molto puntuale a dare una certa immagine dello spirito olimpico, e direi che i londinesi l'hanno questi volontari l'hanno interpretata alla perfezione, anche se poi magari ancora negli ultimi giorni provavi a chiedergli un'indicazione molto banale dove poteva essere quella tribuna o quel determinato ufficio, non è detto che la risposta era sempre esaustiva, Gigi. Ecco, si dice della cortesia asiatica, magari gli inglesi hanno imparato un po' dagli orientali, che naturalmente sorridono, ti dicono magari di sì e poi ti perdi. Vabbè, ma anche questo bisogna anche fare i conti, immagino, con dimensioni, complessità di nuovo. Dario, allora dimmi in conclusione, ci sarà una critica a questi giochi, qual è la tua di conclusione? Direi che sì, alcune cose magari non hanno funzionato alla perfezione, il sistema dei trasporti all'inizio, i casi di doping, perché anche qui abbiamo visto una nuotatrice cinese che per alcuni aspetti è andata anche più veloce di un fenomeno come l'Opti, e la cosa ci ha lasciato stupiti e insospettiti, e direi che forse dal punto di vista organizzativo la pecca più grande, e ed è un problema da risolvere anche in chiave futura, è stata quella dei biglietti. C'è stata grandissima polemica perché avete visto anche in Italia, abbiamo sentito parlare abbondantemente, tanti posti vuoti malgrado i sold out sbandierati a destra a manca, perché c'è questa cattiva abitudine da parte degli sponsor di comprare questi stock di biglietti per poi lasciare le tribune vuote, e anche in quel caso l'esercito è stato usato per riempire questi buchi, certo non graditi dalle televisioni. Da come figuranti. Esattamente. Beh, si saranno divertiti in compenso. Sì, oddio, faceva un po' effetto vedere magari reduci dal fronte afghano a vedere la ginnastica ritmica. Perché poi più rilassante, no? Sì, assolutamente. Però ecco, magari quello è i biglietti, un dunque problema sì, va assolutamente risolto per permettere, e anche i costi sono spesso esorbitanti, e non può essere questa la filosofia che deve animare i giochi olimpici, visto ecco, che ci sono tanti sponsor che li pagassero loro questi biglietti e facessero entrare la gente gratis. Assolutamente, mi sembra un ottimo spunto, magari uno spunto da girare, e qui concludiamo davvero, alla prossima grande puntata, la bandiera olimpico. Leggevo pochi istanti fa su O Globo, quindi quotidiano brasiliano nato a Rio, ma insomma il quotidiano del Brasile, oggi è in Brasile, ieri la consegna. Quale secondo te la cosa assolutamente da portare, appunto, di quelli che hai vissuto a Londra nella futura edizione dei Giochi Olimpici Estivi? Ma quello che mi ha colpito è stata la capacità inglese di far questa Olimpiade bene, senza pretendere d'essere perfetti, e il sorriso che ci hanno dato fin dalla cerimonia inaugurale, quando ho visto Bean e la regina paracadutata nello stadio olimpico, mi è rimasto un sorriso di stupore che mi sono portato dietro tutta l'Olimpiada. Hanno dato un tono al tempo stesso serio e ironico a tutta l'Olimpiade, che è rimasta per tutta la manifestazione. Direi che da questo punto di vista con i brasiliani non dovremmo correre rischi, ecco. Assolutamente, almeno questo non dovrebbe essere un problema, magari anche qualche imperfezione che siamo più disponibili a tollerare. Di solito quando si affrontano appunto grandi organizzazioni dei paesi del sud del mondo, anche se poi ci sono le sorprese, non dimentichiamo per esempio quante preoccupazioni eccessive per i mondiali in Sudafrica, poi appunto una grande manifestazione. Grazie a Dario Ricci, grazie, e naturalmente appuntamento con lui a partire dalle 14:05 circa oggi pomeriggio. Ciao Dario, buon lavoro. Buona giornata a tutti da Londra. Il meteo adesso, e poi torniamo subito, e anzi cominciamo proprio il viaggio trasferendoci in Brasile. A tra poco. 24 mattino, estate. Giochi olimpici naturalmente estivi, giochi olimpici invernali, quante volte dunque abbiamo fatto i conti alla complessità di queste manifestazioni, si parla di edizioni di successo anche economico, si cita spesso Los Angeles 84, ma dall'altra parte invece edizioni che davvero sono state anche dei colpi per l'economia, anche se poi è difficile sempre spesso capire, come dire, quale ha preceduto l'altra. Così sicuramente è stato Montreal 1976, debiti estinti dopo 30 anni, pensate, a ridosso di Pechino, e addirittura Atene 2004, 10 miliardi di spese. Alcuni sostengono che furono proprio le Olimpiadi ad aver dato inizio alla profonda crisi del paese. Insomma, un grande evento da maneggiare con cura. Non possiamo dimenticare che solo pochi mesi fa proprio il primo ministro Monti ha di fatto chiuso la candidatura di Roma per il 2020 per questioni eminentemente economiche. Ma Brasile dunque, abbiamo sentito già da Londra il testimone passa e raggiunge il Brasile, dove noi invece raggiungiamo Fernanda Massarotto, che è giornalista corrispondente di Blacar, un mensile sportivo, collaboratrice di O Globo, il grande quotidiano appunto del Brasile. Buongiorno Fernanda, grazie di essere con noi. Buongiorno Gigi. E grazie anche, anzi diciamolo, grazie per questa nottataccia che ti stiamo facendo fare, o meglio che tu gentilmente hai offerto di fare. Ma allora, che cos'è questo? È anche l'effetto della voglia di raccontare l'emozione olimpica? Come la vive il Brasile, il passaggio di testimone? Guarda, è un vero conto alla rovescia, perché siamo già in clima di Olimpiadi, questo è vero. Tanto che la TV Globo, la Sport TV brasiliana, è iniziata proprio mostrando, facendo vedere il Maracanã, che sarà il palcoscenico del Rio 2016, dicendo che il febbraio 2013 lo stadio sarà aperto, completamente rinnovato, certificazione ambientale, però a un costo di 344 milioni di euro. Però siamo già a conto alla rovescia, stiamo aspettando questa grande manifestazione sportiva qua. Ecco, conto alla rovescia, conti, visto che già ci dai una cifra che è quella di 344 milioni per lo stadio simbolo, per il cuore, ma che naturalmente non è certo tutto lì. Ricordiamolo, il Brasile non solamente si è assunto l'onore e onere di organizzare i giochi olimpici, ma anche i mondiali, insomma una vera frenesia sportiva dei grandi eventi. Esattamente, sono 33 miliardi di euro per queste due manifestazioni, e quindi partiamo fra due anni con il Mondiale 2014, dicendo però che siamo un po' in ritardo. L'unica cosa è che adesso già il governo brasiliano ha iniziato a privatizzare, fra virgolette, alcune dei punti di infrastruttura molto importanti, per esempio gli aeroporti. L'aeroporto di San Paolo, l'internazionale, quello di Viracopos a Campinas, che è a 92 km da San Paolo, e quello di Brasilia, sono stati dati in concessione all'iniziativa privata, anche perché questi tre aeroporti assorbono 30% del traffico di passeggeri e 52 di merci, quindi lì siamo già l'iniziativa privata che entra veramente con tutta la forza per poter arrivare al 2014, cioè con almeno i trasporti aereo in regola. E poi ci sarà anche metropolitana San Paolo, la linea 4 è poco, però è quasi completa, che va al Morumbi, che andrà all'Itaquera e a Rio, anche per il progetto della linea 4 che porta dalla zona sud alla Barra, che sarà importantissima anche per il Rio 2016. Insomma, ovviamente un enorme cantiere, quello dei BRIC, e quando penso ai BRIC, quindi i paesi, le grandi economie che Brasile, Russia, India, Cina crescono e si affermano, ormai sono affermate diciamo nel corso di questi anni, non possiamo che rimandare alla mente quelli che poi hanno aperto un po' la strada, quindi le grandi Olimpiadi cinesi. Ma prima di arrivare in Brasile saluto il nostro altro ospite, Evgeny Utkin, che è giornalista e corrispondente per Expert Magazine. Buongiorno, grazie di essere qui. Buongiorno. Ecco, naturalmente prima del Brasile c'è Giochi Olimpici invernali 7-23 febbraio 2014 e Sochi, che però è località marittima sul Mar Nero. Allora, una prima introduzione: questi giochi olimpici fortissimamente voluti dal presidente Putin. Sì, assolutamente. Vorrei fare anche la battuta che se è in Brasile il conto alla rovescia è iniziato, qua diciamo che ormai le Olimpiadi sono iniziate, perché per 1 gennaio 2013 dovrebbe essere già pronto, tutti gli impianti e tutto pronto. Io un mesetto fa sono andato a Sochi proprio per vedere come stanno il lavoro. Non erano pronti, ma lavoravano giorno e notte, crescevano a ritmi pazzeschi, mai visto che albergo che è costruito in 2 mesi o qualche stadio in qualche mese. Quindi grande effetto olimpico, di sicuro. Grande effetto olimpico. Ecco, Sochi è una città di mare. Sì. Come mai si fanno le Olimpiadi? No, ma questa è una cosa veramente per la prima volta nella storia, per questo anche costo enormemente grande, parliamo di simili cifre che ho sentito qua, 33 miliardi, qua sembra che valutano già intorno a 30-40 miliardi, ma forse aumenterà ancora su 50, ma per la Russia non è grosso problema, come dicono. Per la Russia non è grosso problema. Adesso arriviamo a questo punto perché è interessante. Ci sono Olimpiadi, forse accade sempre così in realtà, per cui alcuni paesi sono davvero disposti a tutti. Prima però una piccola nota geografica con Evgeny Utkin. Dunque, dicevamo, Sochi sul mare, ma alle spalle al Caucaso. E da qui si spiega. Quindi, quando si vedranno le gare, le discese, gli slalom, eccetera, entreremo in un mondo dove praticamente non esiste una, diciamo, cultura alpina di sport, se non estremamente elitario, o sbaglio? Ha ragione, però c'è stato sempre sci di fondo e di russi e norvegesi. Quindi zona di allenamenti? E di gare? No, giorni di allenamenti di gare, in realtà sci discesa ovviamente sono stati molto elitari, perché c'è solo un po' di Caucaso, un po' sul Urali, e poi ci sono pochi impianti, questo è vero. Però anche questo è un segno della Russia che cambia, il fatto di volere dei giochi olimpici proprio sul Mar Nero, in una località turistica così importante? Perché la si vuole, perché si è pronti a spendere così tanto per i giochi in Russia? Ma perché dicono che vogliono creare comunque un cluster mondiale di extra lusso, perché solo in mezz'ora tu puoi fare il bagno al mare caldo, e salendo con treno veloce, che anche quello è ancora da costruire, anche quello è costato qualche miliardo di dollari, in mezz'ora tu sali e puoi avere la neve naturale, quindi in 30-40 minuti passare dal sole alla neve è l'unico posto del mondo, quindi vogliono creare un cluster turistico di 5 stelle o 5 stelle plus. Ecco, dunque, a proposito, abbiamo cominciato la mattinata parlando del mondo che cambia. Allora, da una parte abbiamo un grande paese, un paese del Sud America, che non solo assume la sfida dei giochi olimpici, ma mondiali, olimpiadi di fatto nello stesso spazio, poi in prospettiva Ma a proposito, infatti Brasile e Russia sono molto vicini, perché prima fa Brasile e poi la Russia vuole fare campionati del mondo 2018, e sempre anche a Sochi, una di città. Ecco, dunque, per farlo si è pronti a spendere moltissimo. Fernanda Massarotto, ritorno in Brasile, proprio in questa nostra corsa di fatto tra i continenti. I brasiliani, immagino entusiasti, per carità non parliamo poi dei mondiali di calcio, ma insomma disposti a tutto, secondo te? Sì, io direi di sì, tanto sì. Questo settore edile è un settore che quest'anno, secondo il sindacato dell'industria del settore, crescerà 5,2%, cioè sono cifre che ovviamente sono stati, ovviamente una stimativa giustamente per tutti questi cantieri per mondiale e olimpiadi, quindi ovviamente qui c'è proprio una voglia di mostrare al mondo che il paese ormai è veramente in grande via di sviluppo, cioè non è proprio il paese sottosviluppato, e quindi cioè, soprattutto in questo settore si vede veramente c'è una crescita impressionante. Ecco, i giochi olimpici sono di fatto una sorta di certificato, una patente diremmo noi italiani di affermazione e crescita da mostrare al mondo. Fernanda, sì, di sì, fatto sì, sì, vale qualche cosa e quindi si è pronti anche a prendere dei grossi rischi? Io direi di sì, perché poi tra l'altro poi c'è un'altra cosa da dire, quest'anno ci sono le elezioni per sindaco e quindi anche Edoardo Paes, che è il sindaco di Rio, gioca tutto anche, cioè ieri si è visto con la bandiera. Poi fra due anni ci sono le elezioni per presidente, quindi Dilma si gioca anche il suo secondo mandato, quindi direi che si gioca tutto in questi quattro anni, quindi si farà di tutto. Una grande sfida con moltissime sfaccettature per un paese naturalmente in corsa e non da oggi, un paese, anzi gli ultimi dati, quelli più recenti in realtà sono un po' raffreddano persino il grande Brasile, ma insomma in un contesto di crescita formidabile, di grande energia. Ecco, i giochi olimpici sono però anche rischi. Ne abbiamo parlato con Londra della sicurezza, sull'immagine, torniamo a parlarne con i nostri ospiti questa mattina, lo ricordo, Evgeny Yudkin, che è giornalista russo, corrispondente per Expert Magazine, Fernanda Massarotto, giornalista e corrispondente di Placar e collaboratrice di O Globo. Intanto per un momento sentiamo come vanno le cose sulle strade italiane. 24 mattino, estate. Volevo chiedere a Evgeny Yudkin, in questi giorni di giochi olimpici, tra le notizie abbiamo anche raccontato scambi, diciamo, non di complimenti tra Madonna in tournée a Mosca e appunto importanti dirigenti russi. La domanda è: nel momento in cui si affronta, ci si espone a un palcoscenico di fatto assoluto e mondiale, il tema della sicurezza da una parte e della comunicazione dall'altra diventa molto delicato. A suo avviso, quanto questo deve e può preoccupare la Russia? Ma prima di rispondere alla sua domanda diretta, solo per impressionare gli spettatori, dico che a Sochi stanno costruendo anche media center per i giornalisti, che contiene 43.000 posti, e posti comodi praticamente, tavole eccetera. 43.000 posti? Sì, per i giornalisti. Solo per i giornalisti. Direi che questo si collega bene alla domanda. A questo punto, come dire, ribadisce il concetto, cioè credo come forse mai in precedenza la Russia, Sochi, ma naturalmente lo Stato e la Federazione Russa al centro, sotto i riflettori. E dunque, qualche rischio? Qualche rischio c'è, anche perché Sochi è attaccato proprio a qualche chilometro dalla Georgia. Ricordiamo ancora il conflitto che è stato e i rapporti sono freddi. Quindi ovviamente, confine georgiano, qualcuno ricorderà, spero, la guerra di agosto, ancora abbastanza recente, e il Caucaso, insomma le zone per definizione assolutamente, dove... Assolutamente, però le autorità russe dice assolutamente che sicurezza al 100%, faranno tutto e non succede niente. Ma spererei e vedremo tra due anni. No, naturalmente ce lo auguriamo tutti, però per esempio senza immaginare, diciamo, situazioni drammatiche, ma l'esempio che facevo prima era appunto quello di Madonna. Il caso lì è bastata quello che, diciamo, per molti versi poteva essere gestita diversamente, anche magari semplicemente lasciando scivolare via, ha provocato una reazione molto dura da parte di altri esponenti politici russi. Questo sì, ma secondo me Madonna ha fatto più pubblicità anche con questo che ha risposto vice premier russo. visto che tutti i giornali hanno fatto, quindi dentro le è contenta, immagino. Lei immagino di sì. I diritti civili, la trasparenza, l'accesso, insomma, temi che già a Pechino sono stati sollevati in maniera importante, peraltro per poi essere completamente ovattati durante appunto i giochi cinesi. Tutte le problematiche che invece riguarda la Russia, a suo avviso succederà la stessa cosa, cioè il grande clima olimpico metterà ovatta su tutto quanto, o sarà invece un megafono? No, penso sarà un caso cinese piuttosto che caso Azerbaigian, dove hanno fatto Eurovisione, hanno aperto le lacune, hanno iniziato a criticare paese piccolo ma che ha gas e petrolio, hanno iniziato improvvisamente a criticare, quindi per loro è andato quasi peggio di ospitare poco tempo fa Eurovisione. Insomma, è un sotto riflettore. Penso che invece sì, io penso che sarà il caso cinese. Il caso cinese, ovatta. Chiarissimo, quindi effetto ovatta. I nostri ascoltatori, Giovanni da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci dica. Guardi, io proprio in relazione a questa faccenda dei giochi olimpici, che come giustamente si diceva poco fa, rappresentano anche un rischio. Mi sono ricordato il vecchio adagio, noi a Roma abbiamo, in Italia abbiamo rinunciato ai giochi di Roma, ma c'è il vecchio adagio che dice che chi non risica non rosica. Lo metto in relazione al fatto che il premier britannico pochi giorni fa abbia detto che per le Olimpiadi erano previsti contratti per 1 miliardo di sterline, il che significava più di 2.000 miliardi di vecchie lire, se vogliamo per essere chiari in termini afferrabili, e più di 1 miliardo comunque di euro, sì, sicuro. E questo fatto di vedere le Olimpiadi come un'occasione importante, a parte lo sforzo organizzativo che impongono sull'Italia, a parte la situazione attuale è difficile, io capisco benissimo che Monti ha avuto il massimo di dubbi sul fatto di promuovere i giochi olimpici a Roma, però di fatto era un'occasione anche per promuovere e fare uno sforzo organizzativo per mettere il paese sotto controllo, per assicurarsi che i soldi eventualmente... Insomma, Giovanni, un'occasione mancata secondo lei, mi sembra di chiarire. Evitare che diventasse un'occasione di rubare i soldi pubblici ancora una volta. Grazie Giovanni, sentiamo da Firenze, Luciano, buongiorno. Buongiorno, io sono intervenuto all'inizio dei giochi olimpici chiedendo informazioni sul numero degli atleti e sul numero degli accompagnatori, tecnici eccetera, e mi fu detto 192 più 100, e chiesi anche del budget e gentilmente il responsabile di Sky che partecipava a quella trasmissione mi disse circa 25 medaglie. Devo rilevare una cosa, se mi consentite. Uno, che il budget è stato raggiunto, lasciamo perdere se bronzo, oro, metallo, sì, legno, cosa sia. In ogni caso ricco, si è suscitato un enorme entusiasmo patriottico che, se posso capire il Petrucci che tira l'acqua al suo mulino, non capisco in governanti o nel Presidente della Repubblica che si sta commuovendo di nuovo. Per le medaglie, grazie Luciano, io vi chiedo di stringere gli interventi. Comunque certo, questo è un altro degli aspetti legati, ci sono state anche parecchie polemiche, assolutamente, come dire, dibattiti anche sulle medaglie. I giochi olimpici sono anche una forte carica retorica, come ci diceva Fernanda Massarotto, anche nel caso del Brasile ci sono già tutta una serie di figure importanti, dalla presidente alle massime appunto autorità del governo, che si posizionano e che hanno interessi enormi. Questo direi che è un fatto ineluttabile. A Fernanda Massarotto volevo chiedere una cosa: in che modo le Olimpiadi possono rappresentare un volano anche sociale, o meglio, da un punto di vista economico l'abbiamo quasi detto, insomma è quasi scontato nelle grandi infrastrutture, ma cosa saranno, Olimpiadi blindate o Olimpiadi di folla? Io spero che siano Olimpiadi sicure, perché noi abbiamo ancora questo grande problema della violenza, e quindi direi che si deve lavorare molto su questo argomento. Per quanto riguarda la infrastruttura, secondo me si può arrivare a 2012, a 2014 e 2016 con una ragionevole infrastruttura, però secondo me il vero problema qua è la violenza e poi anche i prezzi. Per quanto riguarda i prezzi, cioè che volano, oggi vivere in Brasile non è come 4-5 anni fa. Sì, noi abbiamo un'idea sicuramente un po' distorta del Brasile, paese, naturalmente abbiamo il sorriso, abbiamo i posti bellissimi, eccetera, e anche un paese a basso costo che non è più quello di una volta. No, è cambiato molto. È cambiato molto. Oggi, per esempio, una buona scuola, che di solito qui c'è, ovviamente chi può manda il figlio a una scuola privata, può costare anche 1200 euro al mese, cioè i prezzi veramente sono aumentati tantissimi, cioè un caffè al bar qua costa 3,60 reais, che è più di un euro, cioè direi che, e poi non è il caffè buono come in Italia, quindi sono delle cose, anche il biglietto. Prezzi, dunque, sicurezza e prezzi. Sicurezza e prezzi. Ho visto che sui quotidiani, appunto, del Brasile si sottolinea molto il percorso della vessillo, della bandiera olimpica e il passaggio nelle grandi favelas riconquistate, un'espressione che ho visto ritornare, cioè conquista e riconquista del territorio, e quindi il tema della sicurezza. E questo mi ricorda molto quello che è stato fatto a suo tempo anche in Sudafrica. Quindi c'è una sfida, diciamo, sociale legata alla bandiera olimpica. Sì, sì, c'è questa sfida, soprattutto a Rio, di ovviamente poter offrire una città che di una bellezza meravigliosa, ma anche sicura. Quindi entrare nelle favelas, pacificare le favelas e ovviamente poter offrire al turista, chi va a vedere i giochi, anche poi il mondiale, una città più sicura. Secondo me questo è un punto che dovrà essere molto lavorato dal prossimo prefetto, dal prossimo sindaco, ma anche dal governo federale, da Dilma o suo successore. Fernanda Massarotto, in una battuta, la preoccupazione principale, diciamo, di un osservatore attento a questa affascinante, grande sfida che il Brasile si trova ad affrontare? Io direi che una cosa che il Brasile offre sempre è proprio questo calore del popolo, è sempre il sorriso, e quindi chi viene sarà accolto molto bene. L'unica cosa è che è tutto molto bello, si investe tanto, però il problema è vedere il ritorno di tutto questo investimento. Cioè, ricordiamo che l'educazione qua è un punto molto debole, anche la sanità, quindi vorrei pensare anche che questo ritorno potrà aiutare anche in queste, cioè sia nell'educazione e nella sanità, quindi spero che sia un buon investimento. Grazie a Fernanda Massarotto, lo ricordo, giornalista corrispondente di Placar, grazie per essere stata con noi a quest'ora impossibile in Brasile, siamo ancora nel cuore della notte davvero. E Evgeny Yudkin, una piccola battuta, ci ha detto molto chiaramente che da questo punto di vista per Mosca il conto non è un problema. Qual è il rischio viceversa? Qui abbiamo sentito del calore dei brasiliani. I russi sono diversi per carattere e anche per temperatura, visto che sono giochi invernali. Rischio maggiore? Rischio maggiore per i soci di fare flop di medaglie, perché sicuramente per Olimpiadi esiste il fattore di casa, come ha dimostrato gli inglesi, che prima volta hanno fatto terzo medagliere superando la Russia, quindi sicuramente sarà flop non nel senso economico, anche se costerà invece di 30-40 miliardi diranno ok, perché poi andiamo avanti con turismo eccetera, ma se faranno meno medaglie di qualsiasi altre olimpici invernali, questo sarà il vero flop. Una vera delusione. Grazie Evgeny Yudkin, lo ricordo, giornalista corrispondente per Expert Magazine, grazie di essere stato con noi. 8:58, tempo di chiudere GR24, tra poco poi l'appuntamento con 9 in punto. Noi ci sentiamo domattina.